sito attraverso il quale potrete trovare tutte le corrispondenze che vengono registrate nell'arco della giornata. E quindi i podcast delle trasmissioni, che potrete trovare andando a cliccare su palinsesto. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info per proporci le vostre iniziative, le vostre autoproduzioni. E quindi questo spazio è ben felice di presentare tutto quello che ci segnalate. Mentre per inviarci le vostre autoproduzioni in forma fisica, potete spedirle a, appunto, a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185. E quindi un modo per far conoscere i vostri lavori. Poi, se volete mandarci qualche copia, andrà a finire nel banchetto di Radio Onda Rossa, quindi un duplice effetto, quello di farvi conoscere ed andare un pochino a rafforzare il banchetto della radio. Banchetto che portiamo in giro quando possiamo, in giro per iniziative, sia a Roma che fuori. Quindi dai, yeah. Una radio che va avanti libera, autofinanziata, autogestita dal lontano 1977. L'anno prossimo festeggeremo i nostri primi 40 anni. Per aiutarci a continuare, cosa potete fare? Sostenere. E quindi attraverso sempre il sito della radio, cliccando su Sostieni, sarete indirizzati ad una pagina dove troverete tutte le coordinate per poter sottoscrivere. Come anche attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Allora, cominciamo a raccontarvi un po' quello che accade in questi giorni a Roma e dintorni per quanto riguarda le iniziative. Una sarà domani 15 luglio dalle ore 21 al Ben ci venga occupato, sì, perché ci stanno i Round Eye, un gruppo italo-americano britannico però basato a Shanghai, suoneranno insieme agli altri matti dei Light Bob. E noi ci ascoltiamo i Round Eye con il loro pezzo God Doesn't Know, qui con niente poco di meno che Steve McKay. Mm-hmm. a ballad with us on the piano. We're going to say hello, Chimchi. Capitano quei weekend, insomma, che coincide tutto. Eh sì, perché un'altra iniziativa sulle rive del lago di Nemi, organizzata da Anime Salve, il Lagoon Fest. Bisogna trovare, non posso più stare in questo stato mentale, bisogna fare qualcosa di più. E quindi con concerti di Barbera Champagne, Screaming Skulls, Tacita e appunto in sottofondo i Dalton. E ci chiamano allo 06 49 1750 chiedendoci informazioni del nuovo Baobab. Quindi se qualcuno sa più del sottoscritto, il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 1750. Questo ce le riascoltiamo da capo. E per non farci mancare proprio nulla, sempre questo. Questo venerdì, per la chiusura di Alexis Occupato, Street Culture. E quindi un'iniziativa appunto per la chiusura dell'Alexis Occupato, dedicata alla cultura indipendente. Con un programma che inizia dalle ore 12. E quindi tra live painting, body painting e un dibattito con Aladdin sulla street art. Poi dalle ore 22 concerto con Shamikaze Sound Attack. Ed è sempre un piacere annunciare un concerto dei Rancore dai microfoni di Radio Onda Rossa. E anche questa ce la ascoltiamo assolutamente da capo. Le radici leali, Rancore. quindi questo era il pezzo dei Rancore dedicato ad Antonio. Ed abbiamo in collegamento Fabio. Ci sei? Ciao Fabio. Allora, Fabio, insomma, in collegamento da Montelanico a presentarci che cosa? Un'iniziativa di autoproduzione completa, dal mangiare alla musica. Quindi sono tre giornate, da venerdì a sabato, dove c'è il mercatino di artigiano e di prodotti locali. C'è il campeggio libero, quindi chi vuole campeggiare è libero, può venire quando vuole. E in più il pomeriggio è dedicato a rassemblee con i cittadini, insomma con i partecipanti, si discute sul fatto del... Noi siamo un'associazione praticamente che lavora le terre demaniali, che produciamo ortaggi, frutta, cose del genere. E da poco anche un po' di galline ci avremo. Quindi è una festa basata proprio sull'autoproduzione e l'autoconsumo, quindi a tavola ci saranno tutti i nostri prodotti che siamo stati fino a stasera tardi a raccoglierli, patate, fagioli, fagiolini e cose varie. Quindi no, chilometro zero, proprio metro zero. Sì, metro zero, sì. Allora, ecco, infatti adesso è arrivato anche da poco fa il pastore che ci ha portato il formaggio, sempre che c'ha le pecore, insomma, lì proprio vicino dove coltiviamo la terra, insomma, proprio chilometro meno zero. Allora noi Poi sarà accompagnato tutte le serate da buona musica, che parte dal venerdì con dei gruppi, partiamo dal punk il venerdì, poi c'è il sabato musica rock e la domenica dedicata alla musica popolare. E anche questi gruppi sono tutti gruppi che autoproducono la musica, quindi non è perfettamente in linea, insomma, con lo spirito del festival. Vabbè, lo ricordiamo, noi vi conosciamo qua. No, dicevo, noi vi conosciamo qua a Radio Onda Rossa, siete il collettivo Terra Madre, appunto. Terra Madre, sì. Ok, e siamo al Terra Madre Fest. Sì, Terra Madre Fest, che è quarta edizione. Quarta edizione. Allora io, visto che... Si svolge in un parco a Montelanico, poi per arrivare a Montelanico... da Roma praticamente si fa la Roma-Napoli, uscita da Colle Fero, e direzione Carpineto Romano. Prima di Carpineto Romano c'è Montelanico, e poi insomma è facile trovarlo a Montelanico perché siamo un paesino di 2000 persone, quindi non rimane molto difficile. Vabbè, poi immagino sarà segnalato il posto del festival. Sì, certo, come no, ci saranno manifesti, striscioni, cose varie. Allora no, è facile. Siamo arrivati alla quarta edizione, no? Ero un po' curioso di sapere come era stato il percorso negli anni, se è un festival che è andato crescendo, i rapporti con la cittadinanza. Sì, è andato crescendo, diciamo che siamo il festival della pioggia, perché tutti i tre anni abbiamo preso pioggia, e domani diventa pioggia. Vabbè, se siamo arrivati alla quarta edizione, porta fortuna. Sì, ma sempre, insomma, sì, vai. Siamo sempre più conosciuto, quindi insomma la frequenza è ogni anno maggiore, e anche l'organizzazione è migliore, insomma, non è che siamo grandi esperti di festival, quindi siamo un gruppo di persone dove ci sono parecchi giovani, insomma, studenti e cose varie, quindi come diciamo attrezzature, anche quella è tutta un po'... Sono tutte cose un po' rimediate, che abbiamo poche attrezzature, la cucina ce l'abbiamo, però altre cose, tavoli e cose varie, sono tutte cose che giriamo. Poi stasera, per dire, è successo oggi pomeriggio che c'è un grave ritardo, dei ragazzetti, abbiamo montato un parco, oggi l'abbiamo trovato tutto smontato. Ecco, va bene. Ma smontato proprio, quindi avremmo dovuto ricostruire tutto questo parco, non te dico. È stato uno shock per noi, Però ecco, siamo arrivati a tutto, insomma è tutto pronto, domani si parte, anche se piove ci abbiamo un posto al coperto, quindi anche con la pioggia si svolge, che poi dovrebbe essere solo domani in mattina, ma non so, vediamo un po', però per l'amplificazione, queste cose, se ci abbiamo la possibilità di montare fuori, ci piace più fuori. All'aperto, un bel prato, quindi col bel tempo, insomma, con un po' di pioggerella il festival si farà, sì, garantito. Sì, l'abbiamo fatto, insomma, come ti ripeto, negli anni passati abbiamo avuto a che fare, insomma, tutti i giorni con la pioggia, quindi anche grandi, quindi insomma siamo andati sempre avanti, e quindi una volta arrivati non ci fermiamo, non è una pioggia che ci spaventa. Allora, insomma, e poi fa bene all'orto comunque, no? Quindi insomma questa è la forma di lotta che noi adottiamo, è proprio quella di stimolare i giovani, visto che siamo in campagna, l'unica risorsa è l'agricoltura, è proprio un evento, insomma, proposto proprio così, sul fatto di poter stimolare i giovani a produrre, a partecipare alla produzione che facciamo, insomma, c'è una libera entrata in associazione, insomma, chi vuole produrre per autoconsumo, gli eccessi li usiamo in questa maniera, facendo delle iniziative come se l'ha fatta il 25 aprile, oppure certo, nel periodo qui che c'è una sagra facciamo uno stand gastronomico sempre con i nostri prodotti. Come anche è stato qualche tempo fa, insomma, all'orto occupato, sì, no? Sì, all'orto occupato abbiamo fatto dal tramonto all'alba una notte intera, insomma, di musica e di mangiare dei prodotti nostri. E quello insomma sempre in collaborazione con il Branco Sudè, Branco Sudè, sì. Esatto, che cura un po', insomma, più il lato musicale. Ecco, la parte musicale la cura Pamela. Certo, però insomma, contando però le iniziative degli ultimi mesi, cioè, il programma è stato abbastanza fitto, no? Beh sì, insomma, siamo al quarto intervento, insomma, ce n'è stato un altro alla montagna di Carpinedo, in due giorni. Quindi sempre iniziative concentrate nel territorio tra Montelanico, appunto, e Carpinedo. Carpinedo. Con l'obiettivo, insomma, immagino, insomma, proprio di far venire a conoscere questi territori che sono vicino a Roma, no? Che poi durante le giornate ci saranno anche la possibilità di chi vuole, cioè di visitare i territori lavorati da noi, insomma, quindi nel pomeriggio. Ci sono anche chi accompagna le persone che vogliono vedere il nostro lavoro, quello che facciamo, li portiamo, li facciamo vedere. E la mattina poi chi campeggia, addirittura l'anno scorso i campeggiatori venivano con noi a fare il raccogli i pomodori, le cose da mettere in tavola durante la giornata. E quindi, insomma, proprio, vabbè, noi lo diciamo sempre da questi microfoni, no? Non delegare, partecipa, quindi se vi piace la nostra forma di lotta, insomma, che quella di non cercare di non andare a comprare nei supermercati, una produzione a chilometro zero, che oltre alla produzione, insomma, è anche molto valida per la salute. Vabbè, poi sappiamo cosa mangiamo. Certo. Oltre a non dare i soldi a questi disgraziati che ci avvelenano, poi insomma adesso c'è con tutto quello che ne consegue, insomma, abbiamo, no? Questo accordo Stati Uniti con l'Unione Europea, le multinazionali, la TTIP, che esatto, insomma ci dà un bel colpo, no? Direi, insomma, si prendono proprio la libertà, insomma, di poterci avvelenare a tavola. Vabbè, quindi, insomma, combattere questo. Rinnoviamo, appunto, la lotta principale dell'associazione, poi oltre alla lotta politica, che è quella, insomma, che visto che ci contattiamo, ci conosciamo bene. Certo. Va bene, insomma, il fascismo è sempre alla base di tutto. È sempre più necessario. sempre più necessari, sì. Esattamente. I tempi di oggi bisogna stare molto attenti, i fascisti avanzano, se stanno un po' troppo organizzati, quindi bisogna, oltre insomma al fatto dell'autoproduzione, dell'autoconsumo e cose varie, bisogna sempre stare allerta. Insomma, tra l'altro, insomma, un bel modo per stare insieme, insomma, sperimentare una socialità costruttiva, appunto, tra campeggio, iniziative musicali, sì, e visita. Sono sempre belle discussioni, certo, e sempre nuove conoscenze. Ecco, pochi giorni fa è venuto un collettivo dei Castelli Romani che ci hanno voluto conoscere, infatti sono venuti all'orto, li abbiamo ospitati a pranzo. Insomma, quindi ci sono sempre delle nuove conoscenze che accompagni di varie zone. È una cosa molto bella, insomma, che si... Non si sprecano parole, non si spreca tempo. Esatto. E si fa rete, insomma, tra i compagni della provincia, no? Sì, perché insomma questa è una provincia poco... qui c'è... non so, zone dove si fa politica di un certo modo, in una certa maniera, quindi insomma è un po' piatta la popolazione, no? Certo. Quindi siamo un po' gli unici che muoviamo queste cose. E quindi a maggior ragione noi lanciamo l'invito, insomma, agli ascoltatori e alle ascoltatrici a venire a visitare appunto le terre resistenti di Montelanico e dintorni. Quale migliore occasione? Quella del, appunto, del Terra Madre Fest, quarto capitolo, quarta edizione. E poi vabbè, a Roma fa caldo, non si respira, poi, insomma, si sta un po' più freschi a Montelanico, eh? Sì, qui è fresco, se respira proprio che se respira. Bene. Forse qualche sera pure freddo. Noi infatti stasera ci scaldiamo vicino al forno, stiamo a fare focacce, che tu conosci bene. Sì, le conosco bene, sì. Eccezionale. Abbiamo preparato anche le focacce, quindi facciamo pane, cerchiamo di fare tutto. Cioè, allontanarsi soprattutto, insomma, più possibile dal sistema che ci propongono. Benissimo, quindi un'occasione, appunto, un'occasione di lotta diretta che fa bene a tutti. Che fa bene a tutti, sì. Se, una buona conoscenza, per chi purtroppo la campagna la vede poco. Bene, va bene. Allora, io, se non abbiamo altro da aggiungere, insomma, se non hai altro da aggiungere. Sì, da aggiungere, insomma, ecco, invito a partecipare. Certo. Più se partecipa meglio, più se meglio stiamo. È interessante poi le conoscenze, insomma, da parte nostra e da parte degli altri. Benissimo. Potrebbe essere uno stimolo. Perfetto. Ogni tanto qualcuno, insomma, se ci sono stati, ecco, abbiamo fatto anche un'altra serata con degli amici che sono venuti da Roma, insomma, sono rimasti un paio di giorni addirittura a dormire all'orto perché gli è piaciuto talmente bene la cosa, insomma, con i cavalli, poi abbiamo un paio di cavalli, quindi sono cose che in città poco si praticano. Bisogna, insomma, siamo stati molto contenti del fatto che sono rimasti, si sono portati le tende, vogliono fare la notte, sono rimasti un paio di notti. Vabbè, io venendo da Roma, venendo in quei posti lì, è un territorio meraviglioso, cioè non è... fortunatamente ancora vergine, poco sfruttato, dai, sia dal cemento che da altre cose. Bisogna mantenerlo e raccogliere ed unire le forze, appunto, per un allargamento, insomma, sempre più basso, che arriva anche, ecco, in città soprattutto, magari è piacevole, ecco. Certo. Sia per noi che per gli altri. Va bene, Fabio. Allora, noi ci vediamo domani. D'accordo, sì. Va ci bene. Vediamo domani. Perfetto, grazie, ciao, grazie, ciao. Fabio. Grazie. Ciao, a domani, ciao. Ciao. E noi passiamo un po' di gruppi che saranno in scaletta questi due giorni al Terra Madre Fest. Un festival dedicato interamente all'autoproduzione, all'autogestione, appunto, di terre pubbliche. Uno dei gruppi che è sempre presente in queste iniziative perché è direttamente coinvolto proprio nel territorio di Montelanico e dintorni, loro sono i Mefitica. Ed insieme ai Mefitica domani ci saranno da Roma i Max Carnage. E loro sono folli proprio, eh? Max Carnage. E quindi domani sera, oltre i Max Carnage e i Mefitica, ci sono altri pazzi. Oh, come va là? Ma loro sono matti davvero, eh? E non sono neanche umani, perché sono tre scimmioni. Loro sono i Malclango, molto rumore per nulla. E al Terramate Fest nella giornata di sabato un altro gruppo da Roma, e loro sono i Bisus. Ce li ascoltiamo con la loro Stoner Slam. Primi. Andiamo a chiudere così questa puntata di Do It Yourself Invasion. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 22 circa. E quindi un saluto ad ascoltatori e alle ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di stare all'ascolto. Il nostro saluto più caro ed affettuoso va a tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Rimanete all'ascolto, perché tra pochissimo inizia Apostasia. E noi vi lasciamo sulle note di Noisira, Inner Collapse. A giovedì prossimo, dai! Blood.